dedicato a tutti quei paesi che lottano contro l'aggressione militare e mediatica nordamericana. Paesi come la Siria, Venezuela, Cuba. Onore al compagno Fidel. Afuera los Yankees! Thank you.